storia? E tu mi hai detto sì. Grazie veramente per le introduzioni. Io mentre li ascoltavo così pensavo delle cose, delle sollecitazioni che volevo insomma condividere, perché insomma il discorso sul welfare italiano, sì, è vero, welfare di stampo proprio chiaramente familista, tant'è vero che la famiglia è stata definita proprio come una gamba dello Stato sociale in Italia, per cui ha sopperito diciamo a tutte le sta nella Costituzione. Come? Quindi cioè praticamente istituzionalizzato proprio in questo modo. È chiaro poi che in un momento di crisi sociale, siccome l'Italia non ha mai avuto neanche diciamo, un livello di decenza diciamo, legislativa nella tutela dei diritti paragonabile a quello degli altri paesi europei, è chiaro che in un momento di crisi economica e di contrazione dei costi, la prima cosa sulla quale si va a tagliare insomma, è quella, no? Perché non viene considerato diciamo, un diritto essenziale inalienabile, ma l'elargizione praticamente quasi di un altro termine come una tutela, no? Quando è possibile. Quindi il momento di abbattimento dei costi, il Servizio Sanitario Nazionale in Italia è dell'80 e io mi ricordo, ho questo ricordo insomma di quando furono distribuite a tutti le tessere della USL, Unità Sanitaria Locale, no? E poi dopo pochissimo la USL diventò ASL, cioè azienda sanitaria, no? Per cui è chiaro che nel momento in cui si passa da unità azienda è sta lì la logica, no? Bisogna alla fine rendicontare e tutte le spese diventano costi, no? Tant'è vero che adesso sempre di più negli ospedali si cerca per esempio di evitare i decessi negli ospedali, perché sono dei costi aggiuntivi, cioè ti mandano a casa prima che muori, altrimenti vogliono anche diciamo, valutare quel costo lì, no? Quindi è chiaro che più va in crisi lo Stato sociale, più pagano quelle persone che dello Stato sociale hanno un bisogno fondamentale, cioè tutte quelle persone che nella famiglia, che poi è il luogo nel quale il sistema diciamo, viene mantenuto, cioè tutte le persone che cercano di uscire, quindi le donne, le lesbiche, i gay, le trans, è chiaro che su di loro impatta maggiormente. E, la situazione italiana poi è particolarmente scandalosa, perché noi non ci dimentichiamo il ruolo importantissimo, adesso proprio imprescindibile, che hanno le cosiddette badanti, no? Questo termine usato per la prima volta da un esponente leghista, coniato diciamo, per riferirsi a queste donne di origine immigrata che sopperiscono alle mancanze dello Stato sociale italiano, e sono diventate così importanti che da febbraio a marzo 2010 sono state le spese per le badanti inserite nel paniere dell'Istat, cioè di quei costi fondamentali della famiglia italiana. E per cui sia importante che, cioè per noi fare questo tipo di analisi, ripensare, rifondare il welfare, intersecare le lotte, però in modo molto laico e anche cauto, non vorrei dire una cosa antipatica, no? Però tutti quanti abbiamo seguito in questi giorni la vicenda della Fiommi. E chiaramente tutti quanti cioè, siamo stati dalla parte del no, ovviamente, no? E ovviamente, ovviamente. C'era proprio bisogno di specificarlo. Io lo dico, diciamo, ecco, pongo questo elemento di criticità perché quando si vogliono intersecare le lotte bisogna conoscere bene i soggetti con i quali ci andiamo poi a confrontare, perché sappiamo che non sempre a una condizione materiale di disagio, di oppressione corrisponde poi un desiderio di liberazione generale, no? Lo conosciamo anche all'interno del movimento LGBT, per cui quando vogliamo intersecare le lotte, confrontiamoci anche conflittualmente, perché sappiamo, per esempio, che tanti operai e operai della FIOM hanno la tessera FIOM e poi votano Lega. E il sentimento nazionale razzista della Lega, se non lo conosciamo bene, per cui la butto lì come un elemento di criticità. Non voglio dire che non dobbiamo intersecare le nostre lotte con gli operai della FIOM, però insomma dobbiamo sapere comunque che nel momento in cui andiamo a volerlo fare dobbiamo anche metterci in una posizione di conflittualità costruttiva. Chi c'è? Te. Carlo, Elena. Punto. No. Voglio dire sì. Va bene. Carl. No, io non devo dire nulla. Ho detto chi c'è. Leila e Elena. Mi devo distratta. Chi c'è prima? Leila. No, volevo un po' agganciare sul discorso che stai facendo te, perché io penso che la sinistra italiana, diciamo così, cosiddetto sinistra, non parlo sinistra, parlo di questi partitoni del PD e tutto il resto, loro hanno abusato molto della parola welfare nel passato, perché dicevano di essere, fare bene agli altri e non lo facevano, perché indietro c'erano tanti altri problemi del concetto religioso. Allora io penso che una delle cose che non sono riusciti a combattere, che poi è un elemento caratteristico della destra, che è la ipocrisia, che c'è molta ipocrisia nella, soprattutto, ma noi lo troviamo anche in molte persone della sinistra che dicono noi siamo a favore a questo, a quello, e poi non sanno nemmeno di cosa stanno parlando. E per concludere, per esempio, prima parlava Filippo della questione nessuno sarà libero, per esempio, è una frase che per me rende incomprensibile. Perché rende incomprensibile? Perché sembra una frase buttata così, senza connesso, no? Invece dico, c'è una cosa che poi torno sempre, oggi sto molto incorporato con Paolo Freire, no? Perché c'è una frase di Paolo Freire molto più forte, che lui dice: nessuno libera nessuno, nessuno si libera da solo, ma si libera insieme, in solidarietà. E io credo che oggi quello che manca nel movimento è la solidarietà. Grazie, Elena. Parto dal fatto che io nella vita sono dipendente pubblica a tempo indeterminato. Da 3 anni. E parto da questo perché io credo che noi come movimento dobbiamo analizzare tutto, discutere di tutto e sentirci avere appunto la libertà di spaziare su tutto. Poi però ci sono dei livelli su cui possiamo intervenire e dei livelli su cui non possiamo intervenire, e rispetto a questo discorso io credo che noi possiamo intervenire, come tutti e tutte, molto sul piano dell'egemonia culturale relativa ai discorsi che si stanno facendo. In questo paese negli ultimi anni c'è stata una fortissima campagna di demonizzazione e discredito di tutto ciò che è pubblico, cioè è veramente molto forte, tanto che la media delle persone pensa che la scuola italiana faccia schifo, quando rispetto alle graduatorie internazionali in genere invece ha dei livelli piuttosto alti di riscontro alla scuola pubblica. Certo, se poi la paragoni a Oxford o a Yale probabilmente no, ma se la paragoni a altre scuole pubbliche in genere è così, insomma, la scuola elementare è molto alta, poi a scendere, ma insomma senza andare nel dettaglio. Questa campagna di discredito che ha riguardato tantissimi media è stata molto forte e molto efficace a mio parere. Se voi ci pensate, passano mesi interi, ora negli ultimi tempi no, perché c'è stata la riforma Gelmini, quindi un po' di scuola si è parlato, ma altrimenti ci sono stati mesi e mesi, se voi ci pensate, in cui passano sui giornali solo i casi dell'insegnante pazza e taglia il ditino al bambino, l'insegnante porcone che eccetera eccetera, è un caso dopo l'altro e basta, no? A scuola se ne parla normalmente per parlare di questi casi, oppure perché crolla il tetto, ma senza forse il problema del perché crolla il tetto sostanzialmente, perché il tetto crolla davvero invece. Dico questo perché io credo che bisogna stare attenti e attenti a quello che diciamo per non farsi magari inconsapevolmente alleati di chi fa continue campagne contro il pubblico, perché il pubblico perché vuole distruggere tutto quello che è pubblico, che poi è una spesa collettiva che si va a articolare tra sanità, scuola e infrastrutture, e servizi d'altro tipo, insomma tutto quello che è la spesa dello stato sociale sostanzialmente, perché la retorica del neoliberismo io credo che abbia molto affetto i nostri discorsi. Cioè il movimento LGBT è caduto molto spesso nella retorica del nuovo che è meglio del vecchio, ragione. L'ho letto prima quando dicevo quello di nuovo, perché nel senso siamo stati devastati per 10 anni dalla retorica che tutto ciò che è nuovo è meglio del vecchio, e nuovo cos'è? Nuovo è il mercato, nuovo è internet, nuovo ma già io mi ricordo già a metà anni 90 si diceva esattamente queste cose, probabilmente si dicevano anche prima, insomma, non sono discorsi di ieri l'altro, insomma sono discorsi piuttosto complessi. E questa cosa del, per esempio, oggi stiamo meglio, si dice a volte, si diceva di più qualche anno fa, ma si dice anche oggi, ve l'assicuro, che oggi stiamo meglio di 30 anni fa, perché 30 anni fa c'erano meno discoteche. C'erano? Meno discoteche, perché le lesbiche cosa fanno? Vanno a ballare. È vero, fanno anche sesso, per ballare basta. E basta, non fanno. Non fanno il sesso. Quindi, insomma, io volevo semplicemente sostanzialmente dire questo, perché poi fra l'altro in questo paese io sono convinta che anche il neoliberismo abbia avuto degli aspetti molto specifici rispetto a altri paesi, perché in questo paese si sono stranamente collegati gli aspetti più retrogradi, bigotti e reazionari all'ideologia del nuovo che avanza, del neoliberismo. Cioè in qualche modo la Lega più becera è l'altra faccia della lode al mercato che deve essere svincolato dal controllo della politica, eccetera, eccetera. No, io credo che insomma, non è un fatto italiano, perché insomma, credo che anche in certi paesi del Sud America questo sia successo allo stesso modo, pensa al Cile, ma insomma, ora senza entrare troppo nel dettaglio da questo punto di vista, pensa al Cile, è il paese con le leggi più neoliberiste del mondo, non c'è nessun dato, eccetera, eccetera. E quindi insomma era questo il discorso da fare. Io credo che per noi sia molto importante difendere tutto quello che è la sfera pubblica dell'erogazione di servizi alla persona, eccetera, eccetera, ma ricordandoci anche fra l'altro che noi abbiamo un sistema di tassazione che lo prevede, cioè, nel senso che noi paghiamo una marea di tasse proprio perché dovremmo avere scuola e università gratuita, sanità gratuita, eccetera, eccetera, perché altrimenti, nel senso, di quanto è di pochissimo tempo fa la statistica per cui l'Italia è il terzo paese al mondo per prelievo fiscale dopo la Svezia e la Danimarca. Ma in Svezia lo Stato gli finisce persino le scarpe, non è la stessa cosa che abbiamo noi qua paghiamo il ticket, qualcuno mi aiuterà, credo dall'80 qualcosa del genere, il ticket sanitario sto parlando. Ma ci fu un dibattito molto grosso che all'epoca che cercò di contrastare questa cosa. Ora manco ce lo ricordiamo più, ci pare normale pagare il ticket, ma di fatto noi quelle spese sanitarie le paghiamo già nel prelievo fiscale generale. Parliamo delle scale, insomma, delle classi, per esempio quando si paga il tasso universitario, non si paga in base al reddito, della fasciazione, ma nessuno dovrebbe pagare. Cioè, nel senso, perché le tasse universitarie sono già prese dal prelievo fiscale generale, ma tutti questi discorsi sono ormai talmente lontani nel tempo che non ce ne ricordiamo nemmeno più, e io credo che questo ci riguardi molto, e credo che le questioni della sanità, ne abbiamo parlato molto oggi, credo la questione della scuola pubblica ci riguardi altrettanto. Chiudo dicendo che non so se l'avete sentito, ma Ratzinger all'ultimo discorso o la settimana scorsa ha incontrato gli ambasciatori dei paesi che hanno ambasciate nello Stato Vaticano. In quell'occasione ovviamente ha parlato molto dell'Egitto e del fatto che gli stati si devono fare carico della libertà di culto, delle minoranze anche, se, mettendosi dalla parte della minoranza, cioè mettendosi come minoranza, certo. Ma la cosa che ha anche detto è stato che le libertà, gli stati devono fare forza e devono garantire la libertà di culto, e ha portato un esempio. L'esempio è il fatto che nelle scuole, per esempio in Spagna e in Italia, ci siano dei corsi di educazione sessuale gestiti dai consultori, da chi è, eccetera, eccetera. Questo è contro la libertà di culto perché impedisce ai cattolici di portare avanti i propri valori. Allora, aspettatevi qualcosa presto, perché ve lo dico siccome aneddoto: l'insegnante di religione che insegna nelle classi dove insegno io, un mese fa ha votato contro il consiglio di classe, in tutti i consigli di classe a cui partecipa, il corso di educazione sessuale. Gli anni scorsi non succedeva. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sta per partire un attacco a quella cosa e che presto verranno proposti dei pacchetti gestiti direttamente dalle associazioni cattoliche da inserire nelle scuole per portare quel tipo di corso di educazione sessuale. Grazie Giada. Grazie. La chiamavano Cassandra. Che hai cambiato segno zodiacale. Dice che io infatti da toro sono diventata vacca. Pare che non sia sufficiente. Date il culo, non è più. Lina. Scusa. Lina, aggiungi, no, no, prima devo andare io, forza. Allora, io parto dall'egemonia culturale della quale parlava Elena. Sì, grazie. E vi racconto una cosa. Premesso, sono argentina. Vi racconto una cosa della quale qua non si parla mai. E ho sempre più la sensazione che siamo talmente incastrati. Prima sentivo le battute con Filippo, come si fa, cioè voti no alla, alla Fiat e poi che fai, ti chiudono la fabbrica, cioè ci sentiamo tutti come incastrati, no? In una situazione che non ha più di uscita, cioè io così mi sembra di capirlo, quindi tu dici no, io contrasto questa cosa, sì, però la soluzione qual è? Dall'altra parte sembra non ci sia nient'altro. Allora, volevo socializzare questa cosa e raccontarvela, perché ho fatto un esperimento ieri, ho messo la parola Argentina nel motore di ricerca della Repubblica, per vedere, perché poco tempo fa è venuta un'amica dall'Argentina, vive qua comunque dagli anni 60, e mi diceva, ma hai notato qua non si dice niente, nell'America del Sud c'è, tranne i minatori del Cile o il disastro in Brasile adesso con l'acqua eccetera, non si parla, non si dice niente. E sono uscite, ma non lo so, a un certo punto credo alla trentesima notizia mi sono fermata perché erano tutti i calciatori, e allora ho detto vabbè, capito, solo di questo si parla quando si parla di Argentina. Allora lì sta succedendo una cosa un po' diversa, perché l'Argentina ha un debito che deve trattare con il Club di Parigi. È da 2 anni che il Club di Parigi chiede di pagare questo debito. E l'Argentina da 2 anni dice, se c'è nel gruppo per contrattare questa cosa il Fondo Monetario Internazionale, io non faccio nessuna trattativa. E siccome è praticamente imprescindibile, perché tutto questo che stiamo vedendo in Grecia, Italia, dappertutto, è dettato ovviamente dal Fondo Monetario Internazionale, e l'Argentina ha già vissuto quell'esperienza, è andata in bancarotta totale, e continua a dire io non tratto a quelle condizioni. Non ho seguito nell'ultimo mese, ci sono state le feste, però c'è stato il primo incontro, perché alla fine questo Club di Parigi ha ceduto a fare un incontro con l'Argentina senza il Fondo Monetario Internazionale. perché la Turchia dice non voglio più seguire negli ultimi anni, con gli ultimi governi, le politiche che mi impongono. Cioè, da quello che dicevate voi, il taglio delle spese, cioè tutto diventa una spesa, taglio delle spese e così via. Perché quello porta poi a quello che stiamo vedendo, cioè se tu tagli dappertutto, posti di lavoro, welfare, eccetera, poi cioè, si riducono i consumi, la gente non ha nemmeno i soldi per comprare niente e cioè, tutto crolla a un certo punto. Allora, l'Argentina quello che sta facendo ultimamente è il contrario, a parte tutta l'esperienza delle fabbriche occupate, che sono tantissime e non sono solo fabbriche, ma sono anche rosticerie di tutto in più, alberghi, cioè quando sì, quando c'è stata la bancarotta e questi padroni, diciamo, sono scappati, hanno preso i soldi, sono andati via, eccetera, i lavoratori hanno preso questi posti di lavoro che potevano essere una rosticceria molto grande, che abbiamo conosciuto, o alberghi, fabbriche, di tutto. E questa esperienza, quasi tutte poi si sono trasformate in cooperative, stanno facendo delle esperienze bellissime, a parte tutto, non solo di sopravvivenza, diciamo, di guadagno, eccetera, ma anche di esperienza nei posti dove si trovano le fabbriche, per esempio, nella metà di quello che entra lo spendono anche in servizi nei quartieri dove stanno, con luoghi per polisportive per giovani e cose di questo tipo. E poi c'è tutta la parte invece che sta facendo il governo. Come sapete, in Argentina poi tutto questo si sta accompagnando anche di un'apertura dei diritti, cioè c'è stato il matrimonio, eccetera. Sul matrimonio volevo raccontare questa cosa, perché la proposta di una parte del governo e dei partiti era quello di fare il matrimonio, cioè con credo che non è nemmeno, cioè un cambiamento del codice civile praticamente, che ha la parola non so, moglie, marito, qualcosa del genere, ha messo ha sostituito con coniugi e basta. E con ovviamente tutti i diritti poi di adozione, credo tipo 2 settimane prima la legge era passata già alla Camera, doveva passare al Senato, e la parte moderata nel Parlamento ha presentato una legge di unioni civili, che noi chiamiamo unioni civili. Tutte le leggi in Argentina devono passare attraverso un ente governativo che si chiama INADI, che è quello che vigila su tutte le leggi perché non ci siano, infatti credo non c'è nessuna legge di omofobia, cose di questo tipo, ma tutte le leggi non devono essere discriminatorie o razziste o qualcosa, cose di questo tipo. Allora, quando questo ente ha visto questa legge di unioni civili, l'ha bocciata, ha detto non si può fare in Argentina, perché praticamente se si approvasse verrebbe scritto nero su bianco che c'è una parte dei cittadini che si può sposare e un'altra parte che invece non lo può fare, che deve fare l'unione civile, allora è discriminatorio, dunque bocciata. È passata quella del matrimonio. Allora, vanno accompagnate queste cose. Nel 2007, racconto questa storia per capire come si può fare a volte, una fabbrica di macchine in Argentina aveva annunciato che avrebbe lanciato un nuovo modello di macchina. Arriva il 2008 e c'è la crisi. Dunque, questa fabbrica dice dobbiamo licenziare 1500 operai, il modello non si potrà più fare. È arrivata la crisi, non si può più fare. Il governo allora a quel punto subentra e dice a questa fabbrica: noi ti facciamo un prestito, quanto ti serve? Facciamo un prestito, però a condizione che tu lanci il nuovo modello e non licenzi nessuno. E così hanno fatto. Questo debito poi doveva essere in 2 rate, che non so quando dovevano darlo. E niente, la fabbrica ha lanciato un nuovo modello, non ha licenziato nessuno e ha assunto altri 1000 operai. ha ridato la prima rata al governo e stava per dare in anticipo la seconda. E i consumi sono aumentati tantissimo ultimamente, anche perché sono entrati nello stato sociale, è stato dato un assegno universale per figlio, che vuol dire dare un assegno che qua potremmo tradurre 150 euro al mese per ogni figlio, a tutti i lavoratori precari o a tempo determinato o disoccupati, eccetera. Questo ha fatto crescere tutto, così che il contratto nazionale delle fasi di tutta l'industria alimentare stava contrattando insomma un aumento, e nel frattempo erano passati metti 7 mesi di trattativa. A un certo punto i sindacalisti fanno i conti e vedono che era aumentato tantissimo il guadagno dell'industria alimentare, perché c'era l'assegnazione per bambino che aveva fatto ovviamente consumare molti più alimenti a tutte le famiglie, e allora hanno chiesto un aumento ulteriore, hanno detto state guadagnando di più, ci dovete dare più aumento. È stato dato un aumento del 30% a tutti i lavoratori. Allora, voglio dire, non è una... Cioè, quello che ci stanno dicendo qua non è l'unica soluzione, voglio dire. Dopo tutte le esperienze negative, ovviamente, dell'Argentina, negli ultimi tempi, anche in Uruguay, cioè da leggi di adozione per bambini per omosessuali a stato sociale, redistribuzione che non c'era prima, che adesso si comincia a fare, cioè... c'è un modo di fare diversamente, e in genere si vede proprio dalle ultime esperienze in alcuni paesi dell'America Latina come vanno insieme le due cose, cioè vanno insieme i diritti con anche una situazione economica migliore, insomma. In genere vanno così insieme, voglio dire, quando invece c'è una contrazione di diritti, quindi c'è una contrazione anche di stato sociale, eccetera. Luigi. Scusate, invito sempre a iscrivervi, perché siccome l'assemblea si sta piano piano sfoltendo, se ci segniamo proviamo a chiudere magari anche prima delle 8, in maniera tale che chiudiamo insieme. E poi ci rivediamo dopo, insomma. Allora, vabbè, io probabilmente dirò una frase abbastanza. Cioè, a noi ci piacciono. Sono delle cose su cui ripeto da un po', ma che non sono riuscita a scegliere. Per esempio, rispetto all'introduzione di Filippo, no? E rispetto anche alla segregazione e all'oppressione del soggetto LGBT nel mondo del lavoro, ok? Siccome chiaramente avendo anche un percorso di linguista ho riflettuto molto sulla segregazione delle donne nel mondo del lavoro, quindi di quanto il ruolo della donna nel mondo del lavoro, appunto, l'hai accennato pure un po' tu, anche se non è. Quindi, comunque, vabbè. Rispetto al soggetto LGBT ho iniziato a fare questo tipo di ragionamento e effettivamente non riesco a trovare delle corrispondenze proprio matematiche tra l'una condizione e l'altra condizione, perché per esempio il soggetto LGBT non viene retribuito meno perché è LGBT, banalmente. Non è che nella busta paga è indicato il fatto che tu sei un soggetto LGBT e quindi prendi una percentuale in meno, questo non esiste nel mondo del lavoro, e per fortuna, ovviamente. E quanto piuttosto invece la segregazione del soggetto LGBT nel mondo del lavoro sia una cosa orizzontale, nel senso che io vedo che per esempio ci sono determinati settori di mercato del lavoro che sono tipicamente LGBT, no? Esistono. Per esempio il mondo della moda, il mondo dell'estetica, eccetera, eccetera, sono settori in cui effettivamente può essere anche un vantaggio essere gay o essere lesbica, non tanto essere gay magari. E quindi anche rispetto alla condizione trans nello specifico, ovviamente su quella non entro, perché chiaramente lì c'è una negazione dell'accesso al mondo del lavoro, se non appunto l'unico lavoro per il quale vengono reclutati i soggetti, le trans. E quindi rispetto a questo, no? Così come se per le donne vedo una segregazione verticale, nel senso che nei luoghi di potere, nei luoghi insomma, di gestione del posto di lavoro difficilmente trovi una donna, quanto invece è più facile trovare un uomo, non so se la stessa, su tutti questi quesiti, non so se la stessa cosa avviene anche per quanto riguarda il soggetto LGBT. E un altro elemento che vedo è relativo all'impossibilità di manifestare, quindi l'impossibilità di manifestare il proprio orientamento sessuale, le proprie scelte sessuali sul luogo di lavoro, che però in verità è una cosa che vedo molto legata alla condizione dei soggetti LGBT, però in verità è una cosa che io purtroppo vedo legata in generale alla dimensione del mondo del lavoro per come è concepito oggi, perché per esempio nel center o nella catena di montaggio io credo che nemmeno gli eterosessuali riescano a manifestare poi così tanto quella che è la loro dimensione relazionale. Perché, ti giuro, non voglio fare un paragone chiaramente tra le condizioni, però appunto è una cosa che vedo più legata all'organizzazione del lavoro, all'alienazione del mondo del lavoro che abbiamo oggi, appunto alla catena di montaggio, al call center, alla precarietà, a mille altri elementi che appunto determinano e influiscono tantissimo su come è diventato andare a lavorare oggi, soprattutto in specifici settori. No, perché poi finisco, tanto Lucia le conclusioni e rispondi. Le conclusioni? No. Sei fortunato. E quindi questa cosa appunto, quanto la vedo più legata appunto all'organizzazione del mondo del lavoro e non tanto alla condizione specifica del soggetto LGBT. E poi rispetto alle possibili soluzioni che tu individui, non so, forse ho capito male, però a me non sembra produttivo riflettere. Riporterei per esempio la questione per esempio rispetto all'uscita di casa, rispetto all'impossibilità di uscire di casa, non al soggetto LGBT, no, al frocio che magari c'ha la famiglia che gli dice che è frocio e fa schifo e però non se ne può andare, rimane lì a beccarsi gli insulti perché non c'ha lavoro, non si può permettere di andarsene di casa, ma in generale al giovane o comunque in generale rispetto alla famiglia, all'impossibilità di uscire dalla famiglia, come dicevi tu, perché è diventato un sostituto del welfare, no? Quindi riporterei la questione un po' più su questo livello, perché io non credo che possa essere, perlomeno per me, non è soddisfacente andare a rivendicare un reddito, un nuovo welfare, perché sono lesbica e quindi casomai nel mio luogo di lavoro io subisco omofobia, e quindi allora rivendico un reddito o il nuovo welfare di modo che io posso permettermi di non andare a lavorare e quindi di non subire l'omofobia. Io preferirei evitare che nel mio posto di lavoro ci sia l'omofobia, così come rivendicare il nuovo welfare, rivendicare reddito, perché altrimenti non ho la possibilità di uscire da casa. Io preferirei che il lavoro non fosse precario, preferirei che mi dessero dei diritti sul lavoro di modo che io possa scegliere lo strumento tramite il quale anticiparmi, uscire da casa e decidere di mandare a fanculo la mia famiglia perché non accetta quello che è il mio orientamento sessuale. E quindi cioè, rispetto a questo appunto sposterei un pochino i piani che tu poi, ripeto, non ho capito bene l'introduzione, non ho capito parlare di queste soluzioni a livello generale o ne parlavi nello specifico legata alla condizione del soggetto LGBT e il mondo del lavoro. Quindi cioè io non mi sognerei mai di andare a rivendicare reddito perché sono lesbica e non posso andare a lavorare, ovviamente immaginavo che la intendessi più ampia, però ecco, io troverei altre strategie che secondo me ci permettono di fare anche quello che dicevamo stamattina, quindi riuscire a dialogare anche con altri settori del mondo del lavoro. Cioè io trovo difficoltà andare da un operaio della FIOM a dirgli io rivendico il reddito contro il contratto che ti ha proposto Marchionne o contro le tue condizioni lavorative nella catena di montaggio. Sinceramente lo trovo proprio difficoltoso perché credo che mi risponderebbe un po' a cazzo. Ah, grazie. Io penso che le cose che hai detto sono tutt'altro che una attaccata di cazzate. Oddio, così mi preoccupo. E come d'abitudine, visto che come sempre non è che tutti qua ci conoscono, io sono Vida Allegrezza, per chi non mi conosce, faccio il manager nella mia vita privata, sono anche esponente di un partito politico, oltre a questo sono dichiaratamente gay in ufficio, in famiglia, ovunque, mi sono laureato in una grande università privata e quindi che devo fare? Posso parlare quasi? Sì. È un'ironia nei confronti di Filippo. Però il primo aspetto sul quale vi volevo invitare a riflettere è questo. Molte delle considerazioni che sono state fatte sono riferite a un aspetto fondamentale, che è fondamentalmente macroeconomico, e che è quello della tenuta dei conti pubblici, quindi la correlazione tra il welfare e le possibilità che ha lo Stato di sostenerlo, ovvero lo Stato e altri enti collegati. L'invito che faccio è quello di non fermarsi a guardare semplicemente l'aspetto della tenuta dei conti, ma di andare a verificare e di considerare nelle analisi il fatto che molti di questi vincoli imposti sulla tenuta dei conti pubblici in realtà non sono scelte nazionali, e quindi, siccome questo è un workshop sull'Euroraid e riguarda in maniera particolare lo Stato dell'Europa da questo punto di vista, ma sono imposti da convenzioni internazionali, nonché da enti che hanno una sovranità al di sopra di quella degli enti nazionali. In maniera particolare, gran parte dei disagi che si vivono a causa dei tagli che comunque vengono operati sicuramente nel welfare in questi aspetti, ma anche in altri aspetti della vita pubblica che nulla hanno a che fare con il welfare, sono in gran parte, dicevo, dovuti al fatto che c'è una fortissima attenzione dell'Europa attraverso la Banca Centrale Europea a un approccio totalmente monetarista. Che significa monetarista? In buona sostanza che bisogna proteggere il valore della moneta, quindi l'euro, il valore dell'euro sui mercati è più importante di ogni altro aspetto. In questo il Parlamento Europeo è fortemente impegnato in un contrasto a questo tipo di potere della Banca Centrale Europea, ma non è sostenuto ovviamente dai governi nazionali, che hanno tutto l'interesse a portare avanti invece lo stesso discorso della Banca Centrale Europea. Qual è il problema che si crea nel momento in cui si sceglie la strada monetarista di protezione della moneta? Tanto per fare un esempio, rispetto alla crisi che viviamo noi in tutta Europa, è semplice: per proteggere la moneta bisogna fare in modo che i tassi di inflazione siano bassi. Per tenere bassi i tassi di inflazione, anche in una situazione di compressione dei consumi e della domanda nella quale noi viviamo, si tengono i tassi di interesse alti, che significa che sono colpiti tutti quanti quelli che fanno ricorso al credito, quindi le imprese per finanziare le loro attività e i privati per finanziare quel che vogliono, i consumi, l'acquisto della casa, eccetera, eccetera. Quindi di fronte a una strategia a una situazione di forte compressione della domanda e di disagio dei redditi più bassi, di perdita del potere d'acquisto, che cosa si fa per proteggere l'euro? Si tiene alto il tasso di interesse, e quindi noi tra qualche mese staremo nella situazione in cui stavamo alcuni mesi fa, di tassi di interesse che arrivavano al 5-6-7% a livello di banche centrali, che significa un impatto devastante. Quindi significa che non solo che lo Stato non paga il welfare, ma significa che l'impresa non investe, che l'impresa chiude, quindi il lavoro va a farsi benedire in ogni circostanza. Per questo penso che sia opportuno lanciare all'interno del discorso che si fa anche non un approccio economico, perché sarebbe francamente poco digeribile da parte di chi leggerà questi aspetti, ma sicuramente lanciare dei messaggi chiari a livello europeo e dire che il movimento, facendo riferimento a questo tipo di percorso di analisi, in realtà vuole sostenere il Parlamento europeo affinché ci siano delle azioni forti per contrastare lo strapotere della Banca Centrale Europea, una visione quindi più vicina alle persone e non a quello che hanno in tasca. Questo come discorso generale sull'aspetto dei temi economici negativi. Vorrei poi avere se è possibile, una risposta, ma insomma un chiarimento. Allora, io ho sentito sia questa volta sia l'altra volta che c'è stata la riunione alla CGIL delle parole un po' forti che riguardano il concetto di famiglia. Allora, non mi è chiara una cosa: se nell'analisi che si sta conducendo si è contrari, insomma, si ha una particolare avversione, una particolare avversione al concetto stesso di famiglia, e quindi il suo ruolo all'interno delle costituzioni nazionali, internazionali, che è una cosa pacificamente riconosciuta e quindi comporta un grosso conflitto nei confronti degli interlocutori, o se in realtà c'è semplicemente una avversione a un certo tipo di declinazione della famiglia. Noi sappiamo che le famiglie, perché siamo molto più aperti di quello che possano pensare i nostri auditori esterni, possono avere varie forme, possono essere anche composte di più persone. Questo ce lo dice la storia, ce lo dice due minuti, finito. Ce lo dice l'antropologia, ce lo dice un sacco di cose. Allora, io penso che sia opportuno chiarire se effettivamente quello che si intende dire è che si vuole ottenere, si vuole chiedere il riconoscimento di forme diverse di aggregazione familiare alle quali dare opportuna tutela attraverso tutta una serie di integrazioni del welfare, e in più a questo non definire il welfare in maniera negativa come familista perché non ci piace la famiglia, ma dire che il welfare deve sicuramente sostenere la famiglia perché deve sostenere tutte le forme di famiglia e quindi tutti i figli che da queste escono fuori, ma soprattutto deve essere in grado di sostenere anche chi fa delle scelte di tipo individuale, quindi le diverse modalità di individualità. Finito il mio contributo, grazie. Antonellina, ok, vado veloce. No, io vado veloce. Come siamo? Vado veloce. Parla, non scenografare. Piano, piano. No, senso, io parto un po' dal discorso che faceva la prima, perché mi trovo molto, molto d'accordo su questa cosa qua. E penso che ci sia anche un altro elemento, sempre legato a, diciamo all'approccio neoliberista e quanto noi siamo affetti, che è la questione dell'individuo, l'elogio dell'individuo e della libera scelta, come si trattasse appunto di libera scelta, perché penso che questo è anche un altro elemento problematico, no? Perché la retorica anche rispetto al pubblico è dire vabbè, perfetto, io dovrei la libertà di poter scegliere tra tante proposte che mi vengono poste, quindi io da utente scelgo appunto la proposta, cioè diciamo quella che può essere la cosa migliore, no? Tra virgolette. Penso che noi abbiamo la necessità di uscire un attimo da questo schema, di invertire questo schema, e in questo senso anche io, diciamo, rispetto alla riflessione del reddito, mi trovo poco d'accordo, nel senso che penso che sia una questione un po' di falsa scelta, cioè se io ho la possibilità di dire perfetto, io ho un tot di posso nessuno, diciamo, liberamente sceglie di accettare un contratto precario e quindi anche di assoggettarsi anche a una vita precaria. Se tutti scegliessimo, non scegliessimo, ci sarebbe un problema. Non so se sono stata chiara, tu dicevi all'inizio, appunto, se io avendo la possibilità di dire perfetto, questo contratto non mi sta bene, non lo scelgo. Penso che nessuno sceglie volontariamente di stare in una determinata condizione di precarietà e quindi si pone un problema. C'è pure un problema che un po', diciamo, è un po' all'inverso, non so come dire. Io penso che il problema non sia appunto della libera scelta, perché appunto ci sono mille componenti che vanno a influire sulla scelta che ogni individuo fa nella sua vita, e penso che il punto appunto e come invertire questa tendenza sia anche come riprende anche l'elemento collettivo che diciamo questo sistema e anche l'approccio diciamo neoliberista completamente frantumato. E penso in questo senso do diciamo due elementi. Da un lato il fatto che comunque diciamo si diceva prima appunto dobbiamo partire da due presupposti per riprendere questo elemento qua del collettivo, tra virgolette. È stato da un lato contestualizzarci, nel senso che se è una fase di crisi economica non ti danno nulla e neanche il reddito ti darebbero effettivamente, e quindi il punto che il problema che si pone, il problema che diciamo anche dicevo anche stamattina rispetto alla questione appunto delle alleanze, e, che pur seppur con delle contraddizioni, cioè è evidente che queste contraddizioni ci sono, ma proprio perché esiste un'egemonia culturale che ha più sfaccettature, e quindi da un lato. Dall'altro lato penso che anche bisogna prendere l'elemento che si diceva stamattina, diciamo del conflitto, perché questa è un po' la questione secondo me centrale, perché se non siamo in una fase in cui appunto di crisi economica, in cui gli dicono devi stringere la cinghia, quando poi in realtà è anche una fase in cui per esempio faccio l'esempio dell'attacco che sta portando avanti Marchionne rispetto alla Fiat, è un attacco tutto politico rispetto a un diciamo un dover contrattare i propri diritti, e in una fase di crisi economica dove appunto diciamo i dati lo danno, cioè nel senso Marchionne guadagna 4 milioni di euro l'anno, e un operaio diciamo ne guadagna diciamo 1.300 al mese, 1.200 al mese. Perché 4 milioni al mese? No, l'anno. Che però delle cose, diciamo dei rapporti. E quindi c'è nel senso, finisco velocemente. cioè nel senso, o ripartiamo anche da questo elemento qui e quindi reinseriamo anche l'elemento, diciamo, del conflitto collettivo e non, diciamo, di come una scelta individuale possa modificare la propria vita, oppure non penso che riusciamo né a leggere la fase in cui ci troviamo né le strategie, diciamo, di uscita da una situazione, in cui appunto ci sono attacchi su più fronti, in cui, diciamo, diciamo, anche gli attacchi assumono anche delle funzioni differenti. Faccio l'esempio, diciamo, anche rispetto alla femminilizzazione del lavoro, c'è un ingresso continuo che non è tanto, diciamo, appunto ingresso delle donne nel mondo del lavoro, ma è anche un adeguamento, diciamo, del mondo del lavoro a delle condizioni che hanno, diciamo, riguardato per in determinate fasi storiche, diciamo, il lavoro delle donne. E questa è la stessa cosa si potrebbe fare anche rispetto alle leggi sull'immigrazione, che sono non soltanto delle leggi razziste, ma sono delle leggi che intaccano profondamente anche il mondo del lavoro. Quindi, cioè, la cosa è, cioè, voglio dire, per finire, è che secondo me noi dobbiamo riprendere una serie di elementi che sono stati completamente cancellati, che sono appunto delle rivendicazioni e, diciamo, la possibilità di processi, diciamo, collettivi, che non sono semplicemente la scelta individuale del singolo, e riprendere anche l'elemento, diciamo, secondo me, del conflitto, che anche in una fase di crisi economica diventa sempre più importante. Questo soltanto. Io due cose al volo, sì. E poi Filippo e Cesare.